Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati. La disoccupazione non è un tema solo italiano. I senza lavoro crescono in tutta Europa, con la Spagna che resta fanalino di coda. Non scende, ma perlomeno è stabile. A gennaio il tasso di disoccupazione nell'eurozona è rimasto fermo al 12%, sia su base annua che su base mensile. Sostanziale stabilità anche nell'insieme dell'Unione, dove i senza lavoro rappresentano il 10,8%, lo stesso dato dei tre mesi precedenti, il leggero calo rispetto all'11% di gennaio 2013. Ma questa è la media e, come sempre, c'è chi sta sotto e chi sta sopra, come l'Italia, dove il tasso di disoccupazione è cresciuto al 12,9% rispetto al 12,7% di dicembre scorso e all'11,8% di gennaio 2013. Il nostro è uno dei 13 paesi in cui su base annua c'è stato l'aumento più forte tra i paesi dell'Unione, Cipro, Grecia e Croazia in testa. Sempre su base annua, come si diceva, la disoccupazione è invece calata in altri 13 stati, tra i quali anche Portogallo, Irlanda e Spagna, dove rimane comunque altissima, al 25,8%, la più alta in assoluto. La disoccupazione resta comunque una piaga per tutto il vecchio continente, con un esercito di 26 milioni di persone senza impiego, di cui 19 milioni nell'eurozona, a preoccupare soprattutto quella giovanile, che però a gennaio rimane anche questa stabile al 23,4% nell'eurozona, con 3 milioni e mezzo di senza lavoro. I paesi dove i giovani trovano più opportunità restano Grecia, Austria e Olanda, male invece in Italia e in Spagna. Ma mancano ancora i dati di Grecia e Croazia, fermi a novembre scorso. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E c'è un altro dato che arriva da Bruxelles. In Europa le donne continuano a lavorare 59 giorni a salario zero. Le ultime cifre rese note questa mattina dalla Commissione europea parlano chiaro: il divario retributivo di genere, cioè la differenza media tra la retribuzione oraria di uomini e donne, è rimasto quasi immutato. Il 28 febbraio è la giornata europea per la parità retributiva. Stesso giorno dello scorso anno, perché corrisponde proprio al 59esimo giorno dell'anno. Come 59 sono i giorni che una donna dovrebbe lavorare in più per guadagnare quanto un uomo. Anna Marino ha sentito Juan Luis Barbolla Casas, direzione generale pari opportunità della Commissione europea. Abbiamo scoperto che non c'è parità retributiva, che c'è una differenza del 16,4% fra uomini e donne nell'Europa. La giornata europea per la parità retributiva si celebra appunto per il secondo anno consecutivo, il 28 febbraio, con questo bilancio. Il fatto che si celebra in due anni consecutivi nella stessa data vuol dire che la cifra, il divario salariale non ha cambiato negli ultimi due anni. Questo è un po' simbolico, spiega perché abbiamo la prima giornata europea della parità è stata fatta nel 2011 e questo è stato il 5 marzo. Voleva dire che in quell'anno il divario salariale era un po' più alto di questo anno. La riduzione in questi anni è marginale, e perché l'Italia invece dà il buon esempio? L'Italia ha una cifra molto più bassa di quella della media europea. In Francia addirittura ci sono sanzioni per le aziende. Sì, il governo francese ha rafforzato le sanzioni per le aziende con più di 50 dipendenti che non rispettano gli obblighi in materia di parità di genere. Parlavamo prima dei dati euro, state bene. Sull'Istituto di Statistica Europea si è scatenata ieri sera la bufera quando il Parlamento europeo ha deciso di interrompere la trattativa sulla riforma del sistema europeo di statistiche. Aspra la polemica con la Commissione, che secondo il capo negoziatore, eurodeputato socialista francese, su questo argomento avrebbe chiaramente perso di vista l'interesse dell'Unione, difendendo privilegi istituzionali con un comportamento che l'europarlamentare ha definito spregevole. Nuovo primato dell'Italia in Europa e non dei più lusinghieri. L'Italia per la quarta volta consecutiva si conferma maglia nera per il numero di procedure di infrazione aperte per violazione di norme comunitarie. E quanto evidenzia un altro rapporto, quello sul mercato unico, anche questo pubblicato oggi dalla Commissione, Bruxelles segnala inoltre di essere molto preoccupata. In arrivo anche in Europa la messa al bando delle buste di plastica per la spesa. In Italia, in questo invece siamo arrivati prima, sono vietate già dal 2011. Ogni anno i cittadini europei usano quantità impressionanti di sacchetti di plastica. Nel solo 2010, secondo dati Reuters, ne hanno utilizzati 100 miliardi, oltre 200 in media per abitante. Una montagna di plastica, per lo più polietilene, che poco dopo l'utilizzo finisce nella spazzatura. In Italia, una volta tanto all'avanguardia, i sacchetti in polietilene monouso sono stati messi al bando già dal 2011 e adesso, il prossimo 10 marzo, il Parlamento europeo voterà una direttiva che mira alla loro definitiva eliminazione in tutto il vecchio continente. Si chiederà agli Stati membri di decidere in tempi rapidi le strategie per raggiungere l'obiettivo. Ma una volta fatta la legge, bisognerà vigilare perché non tutti i sacchetti che vengono definiti biodegradabili o compostabili lo sono per davvero. Eliminando le vecchie buste di plastica non solo si riduce l'impatto ambientale, ma si semplifica e si rende più efficace la raccolta differenziata nelle città. In Nord America è la California il primo stato che sta pensando di approvare una legge per mandare definitivamente in pensione le buste di plastica, ma di recente anche il sindaco di New York, Bill de Blasio, si è detto favorevole alla loro eliminazione. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora un saluto da Anna Migliorati, vi ricordo l'Europa vi aspetta questa sera a Effetto Notte. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.